Da un lato ci sono alcuni media, io stamattina ho letto due giornali, l'Humanité e Libération, quindi abbastanza di parte, che mettono in evidenza la contraddizione di fondo del discorso di Macron, cioè quello di andare in qualche modo a criticare l'Italia, quando in realtà le politiche migratorie della Francia sono state altrettanto repressive. In generale c'è la percezione da parte dei mezzi di comunicazione in questi due giorni che ci sia qualcosa che non va nel discorso di Macron e che insomma le premesse siano un po' sbagliate, perché quello che è stato fatto alla confine franco-italiano, quello che è stato fatto a Ventimiglia, è molto grave. Oltre a questo, la Francia si è di fatto disimpegnata, perché Macron ha soltanto criticato l'Italia, ma non ha fornito la disponibilità del porto di Marsiglia per accogliere Aquarius. Gli unici a fornire tale disponibilità sono stati i corsi. Gilles Simeoni, a parte sono nazionalisti corsi che governano l'isola, hanno dato questa disponibilità. Però in generale c'è la percezione di una contraddizione, non c'è un consenso su queste dichiarazioni molto pesanti del coordinatore di En Marche, di Edouard Philippe e ovviamente anche di Macron. C'è una critica interna, intanto perché ci sono due cose interessanti. La destra dice, dichiara, Ciotti oggi ha detto, Eric Ciotti ha detto che la Francia non deve accogliere, che è bene che tutti se ne tornino in Libia. Questa è la posizione dei repubblicani, che sono da mesi in avvicinamento al Front National. Al contrario, a Marche, la Repubblica Marche, che è il partito personale, populista direi, perché è un partito assolutamente costruito su un personaggio pubblico, cioè Macron, ha al suo interno dei frondisti, delle persone che non appoggiano la politica di Macron, che non hanno appoggiato il comportamento in questa fase e che non hanno appoggiato, esplicitandolo, la loi asile immigration proposta a Jean Colomb. Quindi diciamo che a sostenerlo su queste politiche sono rimasti direi in pochi. Sì, è interessante questo duplice aspetto, perché arrivano critiche da destra e da sinistra, come un po' la situazione anche italiana. La Le Pen, sappiamo che quando si è insediato il governo italiano ha esultato, ha quasi rivendicato una vittoria di questo fronte sovranista. È intervenuta anche in questa vicenda? Non ho guardato se ci sono dichiarazioni da parte sua. Io so che in questi giorni ci sono un po' di problemi, perché sono alcuni mesi che il Front National è in grosse difficoltà. C'è stata una scissione che avrà delle conseguenze alle prossime europee. I conti di campagna di Marine Le Pen non sono stati validati negli ultimi giorni, quindi non avrà diritto a quanto pare a dei rimborsi elettorali, da quello che ho capito, una parte consistente. Non ho visto se in merito ci sono state dichiarazioni, ho visto solo le dichiarazioni dei repubblicani, che sono dichiarazioni che potrebbero essere tranquillamente quelle di Marine Le Pen. Certo, c'è stato questo abbraccio da parte della Le Pen nei confronti di Salvini e di Maio, insomma del governo Conte. Non deve stupire, perché tra la nuova Lega di Salvini e il Front National, contrariamente al passato, ci sono comunque delle affinità e dei legami molto forti a livello di collocazione. Tornando su Macron, fin dal suo insediamento, insomma, il presidente francese ha fatto capire di voler giocare un ruolo attivo ed egemone nell'idea di Europa, e insomma ha fatto un asse anche abbastanza ferreo, almeno così formalmente, con la Germania. La questione migratoria è un ostacolo in questo senso? Bisogna vedere cosa succederà nei prossimi giorni. Mi sembra che sia una situazione in grande movimento, perché per una nave che Salvini ha rifiutato l'altro giorno, Aquarius, ci sono altre navi che stanno sbarcando oggi a Catania, quindi è una situazione in evoluzione che bisogna seguire proprio giorno per giorno per capire anche quali saranno le mosse del governo italiano, che non sono parse molto, molto organiche. Io penso che il grosso problema possa essere sì questo, perché dal punto di vista economico, sulle questioni economiche, penso che le posizioni di Macron alla fine non siano tanto lontane da quelle di Angela Merkel, e invece forse su questa questione possa esserci una discussione, anche perché comunque quello che emerge è che Macron non ha voglia, non ha il desiderio di portare avanti una politica europea sulla questione, e sull'immigrazione, per paura anche di scoprirsi troppo a destra, ha una posizione timida di destra, in qualche modo, o comunque molto securitaria, che è ben espressa dal suo ministro dell'interno, che era poi lo stesso ministro dell'interno di Hollande, cioè Gérard Collomb. È un ministro che, pur essendo un ex socialista, porta avanti politiche molto restrittive e securitarie, ha fatto molti sgomberi negli scorsi giorni, ha anche una delle ragioni per le quali ci sono state quelle azioni alla frontiera italo-francese. Quindi diciamo che Macron, come abbiamo detto altre volte, si è presentato come presidente europeista, salvo poi chiaramente difendere soltanto l'interesse nazionale e cercando in qualche modo di far andare d'accordo tutti, perché un altro elemento che emerge nel suo discorso è un certo unanimismo che viene ricercato, ma che poi con quello che succede negli ultimi mesi in realtà non si rivela particolarmente efficace. La parola ipocrita rispetto al discorso di Macron, discorso di Kelly en Marche è abbastanza evidente, emerge, ritorna in certi commenti anche non di giornalisti erati. Dall'altro canto c'è una controffensiva molto forte, leggevo un articolo di Anne Sinclair, che è proprio la direttrice di Huffington Post Francia, che era moglie di Dominique Strauss-Kahn, molto pesante contro Salvini, perché una parte comunque dell'opinione pubblica, dei media, cercano di sottolineare come questo governo sia un governo populista, si utilizzano ancora queste categorie, sovranista, di estrema destra. Quindi in realtà il discorso di Macron in parte è stato in qualche modo decriptato come ipocrita, in parte è stato apparentemente apprezzato e utilizzato in chiave contro, diciamo, il governo italiano.